fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ci siamo in onda su Resto Radio Convento. Devo fare un po' di ordine qui, richiamare all'ordine queste bambine un po' dispettose, perché stanno un po' dispettendo. O meglio, più che bambine dovremmo definirle le aiutanti di Babbo Natale, da quello che vedo. Però... hai i denti? Ah, le assistenti. No, ma la ragazza mi ha fatto vedere che ha i denti e giustamente diceva, giustamente, insomma, è importante. È giusto. No, dicevo, è importante anche dire agli ascoltatori che hanno i denti, perché insomma, magari se lo stavano chiedendo, lei giustamente ha detto "Ricorda che li abbiamo tutti i denti, non li abbiamo ancora persi". Questo significa che nessuno di loro ha ancora la dentiera e quindi vuol dire questo protesi dentaria, bravissima. E questo vi fa anche capire che sono ancora giovani donne, belle, in carne, in età. In età, ah, ma lei dice molto in carne, molto in carne. Parla per lei, ok? Ma agnello, maiale, cavallo, cosa? Pork. Ah, proprio qualità massima, qualità massima. Prima qualità, molto bene. Ma non sono qui a venderci dei prodotti di macelleria, anche se potrebbe sembrare da queste dichiarazioni. Sono qui per festeggiare una sposa che oserei definire d'oro, se voi siete d'accordo. Bene, bene, l'applauso è stato chiaramente per loro, non per la sposa, perché poi lo rivenderanno chiaramente a un negozio specializzato e si divideranno i soldi comprandosi tante belle borsette. E detto questo, la sposa ce l'abbiamo qui, se riesci a raggiungere un microfono così ti ascoltiamo, ti sentiamo. Eccola qui, come ti chiami? Giulia. Giulia, non so se tu hai mai conosciuto il microfono, è quello lì, quindi più ci parli vicino, più ti sentiamo. Questo è un ragazzo un po' particolare che fa un po' di segni strani. Sì, fa un po' di segni strani. È appena uscito da una clinica di recupero. Quindi dobbiamo un po' capirlo. Fa la pubblicità, la birra, Bex. Brava, perfetto. Ragazzi. È la cosa migliore dire i propri marchi in radio, così ci facciamo mandare le casse di Bex che non. Uno carino non Passa. Li abbiamo lasciati fuori quelli carini, perché per voi per voi, esatto, per voi solo abbiamo selezionato il peggio, per voi proprio. Li abbiamo presi proprio selezionati e li abbiamo fatti passare, perché il peggio è quello, ecco. Che però torniamo alla protagonista di questa molto serata gentile, che l'abbiamo un attimino dimenticata e non si dimenticano le protagoniste. Qualcosa mi dice che si chiami Giulia, ho questa sensazione. Vedete, ho dei poteri paranormali, mi fa piacere averli dimostrati con voi. E allora Giulia, benvenuta. Grazie. A te. Ben trovati. La Giulia anche lei ci tiene a farci vedere che ha i denti, perché sta sorridendo da 25 minuti. Esatto. Sta sorridendo tantissimo perché vuol fare notare questa cosa. E allora Giulia, da dove vieni? Da Sarnico. Pensa che di solito questa è la domanda più facile. È la domanda più semplice e di solito rispondono nell'arco di 2-3 secondi. Tu ci hai messo 2 minuti a rispondere. Esatto. A rispondere alla domanda da dove vieni, ho paura su tutte le altre domande poi come finirà. Gusti. Allora, da Sarnico, e cosa ti porta qui da Sarnico? A festeggiare il mio addio nubilato. Oh, il suo addio nubilato, che bello, quanta tenerezza e quanto romanticismo che c'è in questo momento in questa sala. Allora, il tuo addio nubilato, che direi, oserei definire tema natalizio, quanto vedo. Queste... Hai visto? Hanno scelto tutto loro, hanno fatto tutto loro. Qui, incredibile. Sono molto brave. Molto brave. Ci hanno messo anche poco, mi diceva l'amica, e quindi ci hanno stato... anche sia in termini economici, sia in termini di tempo, proprio organizzative, sono state molto brave, molto efficaci. Brave, molto mi raccontava brave. La Chiara prima, fuori onda. Devo ringraziarvi, perché sono state bravissime. No, mi raccontava fuori onda la Chiara che sono state proprio tutte efficienti, proprio velocissime. Non ti dico quanti messaggi ci sono mandati. No, davvero, se non è 85. Eh sì, tanti, 85. Almeno 85. Oh, ma che super! Di più. 285. 285. Già oggi, prima di arrivare a prendermi. Immagino. Pensate, anche questo me l'hanno detto fuori onda, che una di loro, non dico chi perché non si svela mai il colpevole, ha cancellato la chat perché chiaramente gli stava impallando il telefono, ha cancellato la chat di gruppo a inizio serata e il telefono è ancora lì che sta caricando la cancellazione per il numero enorme di messaggi che c'erano. Ancora il telefono non è riuscito a cancellarla del tutto. Questo per farvi capire di che mole di messaggi stiamo parlando. Qual è stato allora l'argomento di discussione maggiore all'interno di questa organizzazione? Cioè cosa vi siete scontrate di più? Il trasporto. Un dramma. A questo punto che cosa sei arrivata? Con la carrozza, con l'aereo? Come? Con la mia propria macchina. Addirittura. Quindi alla fine della storia hanno organizzato trasporti per mesi, per settimane e hanno scelto poi di farla arrivare da sola. Quindi con la sua macchina. Direi organizzazione perfetta. E col telepass. Ah, benzina e telepass, bello così. Ma tu cosa dove credevi di andare? Avevi delle idee? Ti avevano dato degli indizi? No, ma scherzi, tutto sorpresa. Ok, quindi ma tu, cioè nel senso, cosa ti aspettavi da questa serata? Ma eri da sola in macchina o con qualcuno di loro? Con qualcuno. Ah, ok. Lì c'era la Lina? No, pensavo dovessero mandata la Lina. C'era la Lina che lei? La Paola che è la testimone? Sì. Bene. Vabbè, a questo punto dai, facciamo così, vai avanti con le presentazioni, presentacele tutte. Vai, presentacele tutte. Alice. Alice, beh, è bella ragazza, è bella ragazza. E poi tra l'altro è incredibile che sia qui e non nel Paese delle Meraviglie. Cioè, è proprio eccezionale. È eccezionale, cioè, anche se vorrebbe tornarci. Un po' ci vive. Cioè, è una presenza, cioè, la prima volta che esce dal Paese delle Meraviglie per venire nel Paese degli Esseri Umani a festeggiare la nostra festeggiata di Sarnico, la Giulia di Sarnico. Quindi io mi sentirei non onorata, ma molto di più. Esatto. E tra l'altro non sa quello che sta succedendo nel Paese delle Meraviglie in questo momento. C'è un casino della Madonna perché Alice non c'è, quindi c'è un'anarchia totale. Ma esatto. No, esatto, te lo confermo. Non ti preoccupare, cose. Tranquilla, che quando avrai 18 anni capirai. Adesso sei ancora minorenne, non lo puoi sapere. Però ecco, sappi che io non la conosco, ma ti confermo che è dove lei dice che sì. Che è? Va bene. Quindi, perché l'ho vista più e più volte essere in quel posto a fare quell'azione. Mi fido. Esatto. Quindi speriamo che non vi stiano ascoltando gente che vi conosca, perché sennò andando di esclusione capiscono di chi stiamo parlando. Perché se chi le chiama. Vai, allora. Il capo. Allora, detto di Alice che è venuta alla Paese delle Meraviglie qui, e poi chi c'è? Sono io, mi chiamo Alina e vengo da Santo Domingo. Alina ha preso possesso del microfono. Alina terribile. Alina terribile, graffia. Lì nascosta dietro c'è la Laura. No, ma la Laura o l'apostrofo a Laura? Laura. L'apostrofo a Laura. Scusa, avevo capito male. Quindi L'apostrofo Aura, ok? Villongo, bene. Sposata col sindaco di Villongo, tra l'altro. Perché da come l'ha presentato è chiaro che lei va col sindaco perché deve fare pubblicità. Purtroppo è una donna, Ah sì? Vabbè, noi accettiamo tutti. Noi accettiamo tutti. Heidi, bello il nome. Sì, certo, possiamo dire. Quindi poi abbiamo Alice, Alina, L'apostrofo Aura. Poi chi c'è? Virginia che è la pecora nera del gruppo perché perché si chiamano tutte con la A e lei si chiama con la V e quindi non so come mai è qui, però beh, insomma, si vede che è un'amica importante. Viva la Virginia. Poi Anastasia. Vedi che anche lei con la A, vedi. Anastasia, testimone di notte, giusto? Vengo da Milano. Anastasia, famosa bugiarda. Esatto. Tra l'altro, portatevela in gruppo una protagonista dei cartoni animati, cioè Alice, Anastasia. Che protagonista sarei dei cartoni animati? È la principessa Anastasia. Ah, grazie, no, la sorella di Cenerentola, vero? C'è anche quella, non me la ricordavo quella. No, io pensavo alla principessa. Sei un fantastico. Poi chi abbiamo dopo la Anastasia? Siamo arrivati dove la Adelina. Ma veramente Adelina? Non ci credo. Adelina. Ma è vera? Che tra l'altro è Adelina che arrivo da Londra. Che benissimo, arriva da Londra, è importante, ma la cosa che ci interessa veramente, sai, Adelina chi è? È la? Na? È la? La moglie del Paris. La? O? O? Oca? Di? Di un altro cartone, dai, ma ragazzi, dai, ma no. Le sorelle, le sorelle. La risposta, qual è la risposta? Aspetta un attimo, mamma mia, devo raccontarvi tutto, ma non avete... Chi è risposta? Ma l'altra, Gwendalina, e l'altra è Adelina, no? Che film hai visto della piccola? Non sono quelle? Madonna, adesso voglio andare a vedere. No, no, no, no, no, perché la seconda è... Allora, Gwendalina sono d'accordo e va bene, ma poi c'è anche Adelina. Gwendalina e... Di Bourne. Adelina, eccola qua, Gwendalina e Adelina. Tataradatata. Tataradatata. E cos'era? Gli Aristogatti? No, Aristogatti. Quindi abbiamo la principessa Anastasia, Adelina, la com'è? Alice, questa è una meraviglia. E poi Chiara. Chiara. Cioè, la banalità più totale. La banalità più totale, a Chiara, mi è sceso lo share, che ho il nome Chiara, perché... Chiara, vabbè, Chiara, e Chiara, dobbiamo trovarla, Chiara. Ah, Chiara, perfetto, vabbè, anche la Ferragni, ci sta, no, ci sta? Però, ha fatto cartoni animati la Chiara Ferragni? No, non ancora. Ah, ok, intanto mi fa piacere che la Lina si stia sistemando i pantaloni, perché vuol dire è importante anche mantenersi in ordine, giustamente, bravissima. Poi, detto della Chiara, chi c'è anche? Roberta, per chi non si accontenta. Ah no, quella era una... era Roberta. Però ecco, infatti, della Roberta, beh, conosciamo altre cose per altri motivi, altre pubblicità, però non li racconteremo qui. Perché a meno che non vuoi mostrare, no, non mostra, rimane anonima. Perfetto. Allora, qualcuno vuole dire, mandare un messaggio alla futura sposa? Alla Giulia di Sarnico? Paola, manda un messaggio alla Giulia. Ormai è partito il selfismo violento, e quindi ho paura che nessuno voglia darti un messaggio. La Lina, aspetta che la Lina. Saluta l'Anastasia. Aspetta, la Lina al messaggio. Ho sempre un messaggio per la Giulia. Latino. In latino? No, il messaggio latino, perché vieni da quella terra, no? Certo. Quindi Giulia, niente Giulia, sii felice, non rompere i coglioni e vivi la tua vita tranquilla in pace con tuo marito. Perfetto. Auguri. Tra l'altro, la seconda cosa che ti ha consigliato penso sia, come dire, no, nei 10 comandamenti, una roba del genere, insomma, sia fondamentale. Siamo alla seconda. Tu hai capito cosa voglio dire? Vivila tutta e ti raccomando la palla di Natale dall'Australia. Con amore, Paola. Amore, Paola. Bene. Secondo nome. Ah, ok. Non ho capito. Paola Anastasia. Microfono. L'Anastasia, la principessa. Anastasia. Sì. Si confeziona il suo albero di Natale con le palle di unicorno. Ah, mi manca l'Australia. È furba. Ma Giulia va in viaggio di nozze in Australia e mi manca la palla di Sydney. È furba. Tra l'altro non lo sai, ma Anastasia mi ha detto che dopo che tu l'avrai portato la palla dall'Australia non sarà più tua amica. Ma sai che io... Perché ha avuto tutto dalla vita. No, esatto. Ma sai perché mi manca quella della Russia, giusto perché sono... Allora va bene, Anastasia. Rimarrà tua amica per un paio d'anni. Ma non me l'ha portata dalla Russia. Ah, è già andata e non te l'ha portata. È vero, la matrioska manca. Beh, scusa, a questo punto, Giulia da Sarnico, cos'è che non hai girato? Hai girato il mondo? Giulia, digli di dove vieni, scusa, gentilmente, lei ha detto Santo Domingo, lei ha detto Londra, da dove vieni Giulia? Sulla Ile. Sì. Da Sarnico? Non so, io non lo posso sapere. Esatto. Non lo posso sapere, io vi credo. Io dico la verità, mi chiamo Paola e non Anastasia, ma sì. Lei non viene da Sarnico. Non viene da Sarnico, va bene. No, allora, da Villongo. Da Villongo, che è dove abita il marito della quella di prima. Perfetto. E va bene, allora rimaniamo con questa grande punto di domanda di da dove viene Giulia da Sarnico, che tra l'altro in questi minuti non è più, come dire, ha perso la sua identità di Giulia, ma è diventata proprio Giulia da Sarnico in un nome unico. E allora niente, le facciamo tanti auguri, ringraziamo. Grazie. Questa bella compagnia di amiche molto... Grazie. Tranquille. Molto bene, applausi anche da fuori per questo bellissimo Grazie. Momento e facciamo ancora tanti auguri alla nostra Giulia. Ciao! Ciao!